E allora torniamo in voce. Come vi ho annunciato poc'anzi, siamo qui con degli ospiti, Carlo Bacmi, che ormai avete avuto modo di vedere. Chi di voi ha frequentato la campagna ha visto il sito, abbiamo visto anche i suoi video, non solo Bebrock, l'ho visto, è stato proiettato ieri, quindi insomma faremo due chiacchiere con lui. Siamo qui anche con Nil, uno dei compagni che è venuto ieri per appunto quella che doveva essere la cassazione per la scuola Diaz, rimandata poi invece ieri, rimandata al 6 luglio. Allora, io, se ti va, vorrei cominciare proprio chiedendo un po' un riassunto di quella orrenda giornata, quello che ti va di raccontarci, perché immagino anche che risvegliare quei ricordi non sia proprio piacevole. Però, se ci vuoi raccontare il tuo arrivo in quella che, ricordiamo, era una Genova assolutamente già sotto assedio, e quello che ci vuoi un po' raccontare di quella giornata, di come è passato quella giornata. Ich bin auf jeden Fall 2001 nach Genova gefahren, um gegen den G8-Gipfel zu demonstrieren, natürlich. Io sono venuto a Genova nel 2001 per manifestare contro il G8, contro il vertice. Dann nach der großen Demonstration am Samstag bin ich schon auf der Straße von Polizisten zusammengeschlagen worden und war schon im Krankenhaus. Dopo la grande manifestazione del sabato, la polizia mi ha già picchiato e sono andato in ospedale. Wir wollten eigentlich dann am Samstagabend zurückfahren, das ging dann aber nicht, weil es mir zu schlecht ging. Volevamo partire già il sabato sera, ma come io sono andato in ospedale, non potevamo perché io ero stanco, ero malato. Also haben wir uns entschieden, in der Diaz-Schule zu übernachten und sind dahin gefahren. E abbiamo deciso di passare la notte nella scuola Diaz e siamo andati lì. Und ich denke, was dann passiert ist, wissen alle und wurde schon viel drüber geredet. Ich habe auch schon viel drüber geredet. Quello che è successo quella notte nella Diaz, credo che tutti lo sappiamo, se ne ha parlato e anche io ne ho raccontato la storia varie volte. A me piacerebbe anche che di tutto il Genova di cui si sta parlando, oltre a parlare solo dei processi, delle botte, delle vittime, si parlasse anche di quali erano i contenuti di chi arrivava a Genova, quindi delle parole d'ordine di quella piazza. Per esempio, lui, non so se era un attivista in un collettivo, non so se specifico per una battaglia particolare, o se invece era venuto lì come un militante, come tantissimi poi, insomma, per un suo no al G8, che comunque era giusto. Ricordiamo poi che tra l'altro i contenuti di quelle giornate sono quelli che poi oggigiorno possiamo rileggere come un avverarsi di quello che si diceva allora, la crisi economica piuttosto che il crollo del mercato. Allora voglio sapere se lui aveva così un collettivo per cui portavano avanti delle parole d'ordine specifiche in quella piazza. Ich bin mit einer kleinen Gruppe von Aktivisten nach Genua gekommen, zu fünft. Io sono venuto in un gruppo molto piccolo a Genova, eravamo in cinque. E da dove venivano? Woher? Aus Hamburg. Hamburgo. Wir sind nicht in einer großen Organisation organisiert, sondern eine kleine autonome Gruppe. Eravamo un gruppo autonomo, non eravamo parte di una grande, grosso gruppo collettivo. Aus dem antikapitalistischen Spektrum. Dello spettro anticapitalista. Va bene, allora torniamo, adesso c'è un po' di impasse. Nils ride. No, allora vorremmo sapere, tornando a quella notte tremenda, tu che facevi? Dormivi quando è arrivata la polizia? Che ricordo hai di quello che ti è successo a te? Ich bin zusammen mit meiner Freundin fünf Minuten bevor die Polizei die Schule gestürmt hat, in der Schule erst angekommen. Io sono arrivata alla scuola proprio 5 minuti prima che la polizia arrivasse. Io e la mia ragazza siamo arrivati insieme 5 minuti prima. Die drei Freunde von uns, die noch mit waren, die sind noch kurz ein Bier trinken gegangen und deswegen nicht in der Schule gewesen. I tre amici con cui eravamo sono andati a bersi una birra e dunque non erano lì quando è arrivata la polizia, proprio per caso. Ja, und dadurch, dass ich schon am Tag zusammengeschlagen wurde und auch schon eine Platzwunde im Gesicht hatte, die genäht wurde, und hatten wir große Panik, als wir gesehen haben, dass die Polizei kommt. Vielleicht sogar größere Panik als andere. Come me, la polizia aveva già ferito e mi avevano anche ricucito sul viso. Quando ho visto la polizia ho avuto veramente panico, forse anche più panico che le altre persone, perché avevo già Era subito. Già stato picchiato. Wir haben versucht uns irgendwo zu verstecken in der Schule in so einer kleinen Kammer, aber natürlich haben sie uns da gefunden. Abbiamo cercato di nasconderci in un piccolo ripostiglio, ma ci hanno trovato. La polizia ci ha trovato. Und wie alle anderen wurden wir getreten, geschlagen. Bei meiner Freundin wurden auf einer Seite alle Rippen gebrochen und eine Rippe hat in der Lunge gesteckt. E come tutti gli altri nella scuola siamo stati picchiati brutalmente. La mia ragazza le hanno rotto tutte le costole da una parte e una costola è entrata nel polmone. Wir sind nach der Schule beide ins gleiche Krankenhaus gebracht worden. Siamo andati tutti e due nello stesso ospedale. Siamo stati portati in ospedale. Haben uns da kurz wieder getroffen, aber konnten beide gar nicht richtig irgendwie reden oder irgendwas machen. Lì ci siamo visti l'uno all'altro, ma non potevano neanche parlare, eravamo così feriti. Für meine Freundin ging es dann weiter auf der Intensivstation im Krankenhaus und ich wurde Stunden später irgendwann in der Nacht nach Bolzaneto gebracht. La mia ragazza è rimasta in ospedale, in una stazione intensiva, del cura intensiva. Terapia intensiva, sì. Trattamento intensivo. E a me mi hanno portato in mezzo alla notte a Bolzaneto. Ja, dann zwei Nächte und zwei Tage fast in Bolzaneto und dann wurde ich ins Gefängnis gebracht von da aus. E dopo ho passato due notti, due giorni quasi a Bolzaneto e da lì sono andato in galera, in prigione. Dann zwei Tage Gefängnis und dann wurden wir abgeschoben hinter die Grenze von Italien und durften auch nicht mehr nach Italien einreisen. E dopo due giorni in prigione ci hanno portato alla frontiera, ci hanno dato il foglio di via e non potevo più tornare in Italia. Che immagine, insomma, non è che uno proprio gliene può fregare di meno di tornarci dopo un'avventura del genere, comunque. Ma che tu che ferite hai riportato da quella notte e poi immagino anche a Bolzaneto sarà successo qualcosa d'altro a te in particolare? Di Bolzaneto war für mich das schlimmste von diesen Tagen, die da waren. Per me Bolzaneto è stato anche peggio della scuola Diaz personalmente. Ich wurde auch in Bolzaneto geschlagen, musste mich nackt ausziehen, musste nackt Kniebeugen machen und wurde quasi gefoltert. A Bolzaneto mi hanno picchiato di nuovo, mi hanno fatto mettermi a nudo, spogliare e dovevo fare anche le flessioni nudo. E mi hanno torturato, insomma. Sì, direi che non c'è altra definizione. Com'è cambiata la tua vita dopo questa esperienza, tornando anche a casa tua? Appunto, quello che lui è successo a Bolzaneto, le ferite fisiche fanno le cicatrici, anche quelle, la tortura anche psicologica forse lascia dei segni che poi nel quotidiano segnano, nella paura quotidiana di scendere in piazza. L'abbiamo detto, anche forse una delle cose che abbiamo detto di più in questi anni è quanto poi è cambiato il rapporto con la piazza, il desiderio di manifestare, la grinta che ci si mette, per quanto uno lo voglia fare, no? Poi si trova limitato proprio dall'esperienza che ha subito, appunto, non solo dal punto di vista fisico. Allora gli vorrei chiedere se com'è cambiata la sua vita da questo punto di vista, come si sente segnato oltre che fisicamente anche dopo questa esperienza a Bolzaneto. Die erste Zeit nach Genua habe ich Schweißausbrüche gekriegt, sobald ich Polizisten gesehen habe. Subito dopo Genova, per un periodo non potevo più vedere la polizia e cominciava subito a sudare appena vedevo un poliziotto. Ich habe längere Zeit Therapie gemacht. E ho anche dovuto fare la terapia durante diverso tempo. Terapia psicologica? Sì. Und es hat lange gedauert, bis ich wieder in Anführungszeichen normal auf eine Demonstration gehen konnte. Ho messo tanto tempo per ritornare in piazza di una forma, diciamo, normale. Libera, di sentirsi libero di stare in piazza. Heute kann ich wieder Konfrontation mit Polizei ertragen und gehe auch auf Demonstrationen, wo es Konfrontation mit Polizei gibt. Oggi posso di nuovo andare in piazza e anche essere in uno scontro con la polizia, in confrontazione con la polizia. Wobei es für mich e lo faccio, e da manifestazione. Für mich ist tatsächlich auch trotzdem auch heute noch ein Unterschied zwischen italienischer Polizei und nicht italienischer Polizei. ma anche ma ancora per me c'è una differenza tra polizia italiana e polizia che non è italiana. Ah, immagino. Sì, perché qui c'è da fare anche una riflessione sulle torture, no? Come l'abbiamo chiamate, a cui sono stati sottoposti i manifestanti sia alla scuola Diaz, sia anche per strada e sia a Bolzaneto, perché sappiamo tutti che il codice italiano non riconosce il reato di tortura. Se li puoi tradurre? Che non riconosce il reato di tortura nonostante sia all'interno di una convenzione internazionale a cui hanno aderito la stragrande maggioranza degli stati cosiddetti democratici. E c'è da notare, fra l'altro, e questa è una considerazione necessaria, che in queste convenzioni la tortura non è definita come una serie di maltrattamenti per estorcere informazioni. La tortura è qualsiasi comportamento inumano e degradante. Lo scopo è assolutamente quello di diciamo annientare anche psicologicamente, come anche dalla testimonianza di Nils abbiamo sentito, le persone che sono sottoposte appunto a questo tipo di trattamenti. E in questo senso sicuramente quello che è successo a Genova è tranquillamente ascrivibile al reato di tortura. Su questo, fra l'altro, c'è stato anche una richiesta da parte degli avvocati di parte civile che venisse considerata tortura quello che era successo nell'ambito dei processi riguardo alla Diaz in particolare, ma appunto questa cosa è stata respinta proprio perché non è prevista dal codice italiano. C'è stato fra l'altro un intervento, perché adesso sembra che in una commissione parlamentare si stia discutendo dell'introduzione di questo reato, ma c'è stata subito un'alzata di scudi, come al solito si è distinto l'ex ministro Giovanardi, che ha dichiarato che introdurre un reato del genere potrebbe portare problemi a quelli che ha definito interrogatori un po' energici da parte delle forze dell'ordine. Insomma, a parte che ovviamente un sorriso ce lo strappa, come tutte le stupidaggini che dice questa persona, però insomma dà molto il senso del perché questo reato non si riesca a introdurlo nell'ordinamento italiano. Va bene, sta traducendo Mina. Io adesso, prima di passare a lei, che anche Mina era presente quella notte, e volevo chiedere a Marco se gli va di farci un pochino un punto su quella che è adesso la situazione di questo processo, che appunto dicevamo è stato rimandato è stata rimandata la sentenza al 5 al 6 luglio, su quello che è stato un po' il dibattimento e quali sono un po' le prospettive. Dunque, io ho seguito non tutte le udienze, ma da martedì, diciamo, fino a giovedì ero in udienza. Ho ascoltato con molto interesse, secondo me, l'ottima relazione che ha fatto il procuratore generale, che ha evidenziato in una relazione durata 6 ore tutti i punti, tutte le circostanze sulle quali ha smontato i motivi di ricorso degli avvocati della difesa, e ha ripercorso diciamo la questione, non solo la ricostruzione dei fatti, ma la questione di diritto, che poi è il motivo per il quale siamo ora in Cassazione. Sono intervenuti i nostri avvocati, molto velocemente hanno diciamo aderito alla relazione del procuratore, e poi sono intervenuti gli avvocati invece della difesa, che sono stati anche interessanti, perché proprio nel merito, diciamo, della questione di diritto si andava a verificare la questione del falso e dunque della consapevolezza di alcuni di questi poliziotti in merito al falso e alla calunnia. Ed è su questo che immagino si giocherà, diciamo, l'ultima sentenza, e soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i funzionari che erano presenti quella notte alla Diaz e che sono stati condannati in appello. E diciamo il rinvio che ha sorpreso tutti, perché sentendo gli avvocati è un fatto eccezionale, è successo la prima volta, sarebbe dipeso dal fatto che mancava un avvocato della difesa a chiudere, diciamo, le relazioni conclusive, i tempi erano ristretti e dunque bisognava fare questo rinvio di 20 giorni, che è una cosa assolutamente inedita, eccezionale. Dunque, niente, il 5 luglio ci sarà la sentenza Diaz, il 13 quella per i 10, dunque sarà la settimana di luglio molto importante, soprattutto per voi che avete organizzato questa campagna, questa ottima campagna che in poco tempo ha coinvolto tutte le realtà sociali romane, nel ricordare in sintesi che cos'è Genova 2001, cioè la questione della violenza, la violenza sulle cose, la violenza sulle persone, ed è questo, diciamo, il contenuto che ad esempio a me è più caro per appunto dire soprattutto ai giovani ventenni di oggi che cos'è stata Genova, ed è su questo che spero che voi possiate in queste settimane farvi risentire nelle piazze, nei luoghi più diversi, per appunto coinvolgere sempre di più e far conoscere attraverso anche la tanta documentazione che cosa è stata Genova. Sì, sì, tra l'altro, scusa, a questo proposito volevo appunto ricordare che non ha firmato di farlo e che molto di quello che stiamo raccontando è materiale che potete trovare sul sito, dagli atti che si sono potuti trovare ai video, piuttosto che comunque il materiale su quelli che sono stati i processi. Ricordate che al tempo, insomma, c'era proprio un servizio legale che, appoggiato anche da militanti, tentava di far diventare ciò che è il linguaggio giuridico anche appetibile a tutti e tutte, proprio per far venire a galla questo sistema di cose, questi due pesi e due misure. E quindi, insomma, sul sito 10%.it potete trovare tutto il materiale che volete, appunto, anche per da soli, se volete farvi un'idea di quello che è accaduto. Noi semplicemente non facciamo altro che aggiungere queste trasmissioni piuttosto che le interviste o altri articoli. E quello che io voglio dire pure a voi è di far firmare anche fuori, perché appunto se a Genova c'è stata quella forza di persone è stato proprio perché c'era, insomma, mezzo mondo lì a portare ognuno le proprie parole d'ordine. Sì, l'appello fra l'altro è in multilingue, inglese, tedesco, spagnolo e greco. Quindi, insomma, volendo ci si può sbizzarrire, se vogliamo dire così. Tornando alla Cassazione, c'è da rilevare che due cose. Intanto che gli avvocati della difesa hanno nei loro interventi rimarcato soprattutto il medagliere, se vogliamo chiamarlo così, di tutti questi personaggi coinvolti, pieni di encomi, di lodi, carriere sfolgoranti, eccetera, e per cercare nella peggiore delle ipotesi di avere almeno un'attenuazione della pena che non, poi non configuri l'estromissione dai corpi di polizia, nei quali hanno anche ruoli di grande rilievo. Per esempio, il capo della polizia De Gennaro invece è stato recentemente promosso, e ricordiamo che tutte queste persone inquisite sono attualmente in servizio, il che è veramente qualcosa di assurdo se si pensa ai reati di cui sono imputati, compiuti all'interno, come si dice, dell'esercizio proprio della loro professione, fra 800 virgolette. E questo, per esempio, spesso non succede quando si tratta di altri lavoratori pubblici, cioè è normale che un dipendente pubblico, se lasciamo perdere il privato ovviamente, dove ognuno poi agisce come meglio crede, ma nell'interno del settore pubblico, un qualsiasi dipendente che incappa nelle maglie della giustizia anche per reati che non sono connessi al suo tipo di lavoro viene quantomeno sospeso in attesa della sentenza definitiva. Quindi non è tanto un discorso antigarantista quanto rimarcare proprio il fatto che se tu sei accusato di un reato così grave all'interno dell'esercizio del tuo lavoro, non si capisce perché tu debba continuare poi a rimanere in quell'ambito. Allora, io adesso vorrei passare a Mina, se non hai nient'altro da aggiungere, Marco, rispetto a questo. Calma, per ora no. Per ora no. E Mina, tu da dove vieni? Io in realtà sono spagnola, ma vengo da Parigi. Siamo arrivati, Nils e io siamo arrivati ieri a mezzogiorno all'aeroporto di Fiumicino. Abbiamo chiamato Carlo e così abbiamo saputo che non c'era sentenza, che era tutto slittato. Dunque è un momento difficile, è stato un momento difficile, perché noi durante tutti questi anni abbiamo seguito tutti i processi. Dunque, voi siete parte civile? Tutti siamo due. Parte civili, sì, eravamo parte delle 93 persone che erano alla scuola Diaz quella notte. E abbiamo seguito tutti i processi a Genova e dunque abbiamo deciso anche di venire a Roma a sentire la sentenza, e dopo viaggio, dopo ti toccherà tornare. Sì, e tu venivi da Parigi nel 2001? No, nel 2001 abitavo ancora a Berlino, sono arrivata dalla Germania. Ah, quindi siete arrivati insieme? No, io non conoscevo Nils all'epoca, adesso siamo diventati molto amici, ma immagino. All'epoca non ci conoscevamo e ancora. Da Berlino sei venuta con un collettivo, per conto tuo, con amici? Io in realtà nel 2001 ho finito il mio studio, avevo studiato arabo e avevo fatto una settimana prima i miei ultimi esami e sono andata a Genova piena di gioia con i miei amici. Sì, io a Berlino era attiva, ma non sono venuta con nessuno, sono venuta con i miei amici. Come tanti altri. Sì. E quindi tu sei stata sempre alla Diaz in quei giorni a dormire? No, ho dormito una notte nello stadio, nella Shorba. Quella notte pioveva e abbiamo deciso che forse era meglio un po' più, non avevamo tenda, non avevamo niente, quindi abbiamo deciso di passare la notte alla scuola Diaz, era l'ultima notte e in più pensavamo che la scuola Diaz era un posto sicuro perché di fronte c'era il centro di media, dunque che era tranquillo, ma finalmente è più sicuro essere con tantissime altre persone che essere in 100. Tu che ricordi di quella notte? Che ricordo che a mezzanotte subito sono entrate di corsa ragazzi dicendo che la polizia arrivava e io ero stanchissima e non ci davo credito in realtà, mi sono resa conto che arrivavano veramente quando ho cominciato a spaccare le vetrine delle finestre e lì uno si rende conto che veramente c'è il pericolo quando vede così la violenza, una violenza. Che impressione ti hanno fatto i poliziotti quando l'hai vista? A parte la paura, ma che impressione ti hanno fatto? Che aspetto avevano? Che cosa? Ma erano tutti così Robocop, totalmente coperto il viso, che quello fa veramente paura. E hanno subito cominciato a manganellare, hanno cominciato a insultarci e a manganellare subito, dunque non è che c'è stato un momento di riflessione, era proprio salvarsi, proteggersi. E tu che danni hai riportato? Io in realtà ho avuto molta fortuna perché ero in un angolino e dunque veramente in un angolo del corridoio. In questo angolo veramente non c'era fisicamente lo spazio per manganellarci troppo, dunque io mi sono coperta la testa come ho potuto, ho ricevuto dei colpi sulla schiena, ma dopo quando la polizia se n'è andata un pochino, non so, 5 minuti, 10 minuti dopo ho visto tutto il corridoio che era pienissimo di sangue e di gente per terra. Quindi tu non sei stata portata via, non sei stata arrestata quella sera? Sì, sono andata subito a Bolzaneto. Ecco, e a Bolzaneto? Bolzaneto è stato, ma soprattutto che dopo quello che è successo alla Diaz sapevi che eri in mano a della gente che poteva fare assolutamente tutto con te e in più tutta la parte psicologica. Bolzaneto quasi nessuno ti sa dire quanto tempo abbiamo passato perché non ci lasciavano dormire, non ci davano da mangiare, dunque anche questo aspetto della tortura di non veramente lasciarti senza come si dice, ti svegliavano in mezzo alla notte per non lasciarti dormire, non sapevi se era giorno, se era notte, se era mezzogiorno, c'era sempre poliziotti fuori che ti insultavano, andare in bagno era un incubo perché ti picchiavano, ti facevano, si mettevano a tutti nel corridoio, si mettevano a tutti i tuoi fianchi, come si chiama, sui lati. E picchiavano la gente mentre era portata in bagno. E dopo abbiamo vissuto anche il famoso dottore Toccafondi che con i suoi quando ci faceva le visite mediche è stato veramente ma che era una situazione veramente fascista, era un incubo. Sì, credo che l'aspetto, anche uno degli aspetti più terribili, sia sentirsi assolutamente nelle loro mani. Totalmente. E quindi non sapere il terrore più di quello che stava succedendo, di quello che sarebbe potuto succedere. Io so che insomma avete temuto anche di non uscire vivi da lì. Ma sicuramente, nel senso, dopo aver visto la violenza che abbiamo visto alla Diaz, dopo era tutto possibile ed eravamo in un posto che era fuori legge, dove non si poteva chiamare nessuno, che neanche si pensava, eravamo sì, nelle loro mani assolutamente. E in più con questi facevano dei piccoli ritornelli, gridavano così sottovoce Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, cose così, ossia stiamo parlando bene, ma sono momenti che non dimenticherò, cioè, una cosa, e ci sono questi che sono per strada, sono qui, sono in Italia, non è che sì, questo è importante quello che hai detto adesso, certo, perché qui poi il discorso non ha cambiato quando nulla. Sono costretti ad ammettere che qualche cosa è successo non solo a Genova ma anche in altre circostanze, ricordiamo solo i morti nelle mani della polizia e dei carabinieri negli ultimi 10 anni, parlano poi di mele marce, mentre tu giustamente dici no, sono gli stessi che poi trovi per le strade, che ti trovi davanti in qualsiasi momento, cioè a quel punto io ricordo per esempio che in Grecia la formazione neonazista Alba Dorada, secondo un calcolo facile perché era ricostruibile attraverso i seggi dove votavano i poliziotti, il 50% dei poliziotti ha votato questa formazione neonazista, quindi sicuramente se qualcuno poi va nelle cosiddette forze dell'ordine e idee magari diverse, io non credo che ci poi possa resistere più di tanto, quindi è un'autoselezione anche in un certo senso che poi produce situazioni di questo genere, come voi avete io descritto. Io non so come la possono vivere della gente che non capisce l'italiano, migranti, non so, non voglio neanche immaginare come, che situazione siano sottoposti loro. Sì, fra l'altro noi abbiamo avuto mercoledì scorso una trasmissione la sera con due registi che hanno partecipato alle riprese a Genova nel 2001, che poi hanno dato vita a un film molto bello, Genova per noi, che fra l'altro non ha avuto la stessa visibilità di altri documentari e che ci dicevano appunto che l'ingresso solo il giorno dopo alla Diaz, quindi senza nessuno era dentro tranne chi è stato massacrato, che era una situazione incredibile perché sul pavimento liscio c'erano pozze di sangue, il sangue grondava dai termosifoni, quindi, e poi insomma abbiamo sentito ampiamente testimonianze, ma non per questo sono meno importanti anche riflessioni come quelle che stiamo facendo adesso, sensazioni soprattutto più che il racconto, no? Di quello che è successo, ma come poi è stato vissuto e come ha segnato le persone che erano lì. Ma forse anche la consapevolezza di queste persone, nel senso ci hanno picchiato e dopo subito c'è stata questa perquisizione che chiamano loro, e io sono una di quelle che ha testimoniato perché l'ho visto come dalle zaini toglievano le spranghe di metallo per farle passare come arme, e questo subito è stata la loro reazione, loro sapevano che si faceva così, non è che hanno dovuto guardarsi intorno, non gli è venuta l'idea, era tutto pianificato, era nel programma, entriamo, picchiamo e mettiamo, sì, ma non, io non credo nella pianificazione nel senso del complotto, è che si fa così, sì. È che questo è il mestiere, è una di pratica militare probabilmente, quasi, sì, insomma. Loro sapevano esattamente cosa si faceva in una situazione così, si massacrava le persone, dopo si trovavano le armi, non prima trovi le armi, dopo vedi, no, prima hai massacrato tutti e dopo vai e trovi la giustificazione, così vengono fuori delle cose improbabili come questi molotov, questi verbali di arresto falsi. Poi è veramente il potere della menzogna, il potere è registrato per fortuna, il potere della menzogna, nel senso che appunto si cercava già di dare l'informazione in uno studio dove loro cercava già di appunto manipolare con arte piena appunto tutto quello che sarebbe poi dovuto passare come informazione, quello che era stato trovato, e questo invece poi si è sentito per radio perché appunto il microfono era aperto, posato lì, però appunto questo dialogo tra loro è stato registrato e poi chiaramente con la luce del tempo è venuto fuori che fosse falso. Poi che questo sia stato utile o meno per i processi è un altro discorso, però insomma, proprio per capire il potere della menzogna, quindi come poi era stata pianificata anche la gestione informatica, diciamo, dell'informazione di questa cosa. Sul potere dell'informazione, della menzogna, mi fa venire in mente che, come diceva Mina, cioè anche la diciamo, la conferenza estemporanea che hanno fatto davanti alla scuola. Non so se è su questo che stavi raccontando, quando Sgalla dice cosa hanno ritrovato dentro la scuola. Io penso che sia ciò che loro fanno, nel senso, non è, appunto, non c'è complotto, è proprio la modalità con la quale loro agiscono nel momento in cui si rendono conto che quella situazione doveva essere in qualche modo aggiustata. L'informazione, purtroppo, quella, diciamo, con la I maiuscola, quella dei media ufficiali, quella di coloro che, diciamo, in questi anni hanno detto di stare da parte del movimento, non parlo ovviamente dell'informazione di movimento, ma quella dei media ufficiali, che avrebbero dovuto seguire i processi non solo in base alle sentenze o ai testimoni illustri che ogni tanto passavano per le aule, ma proprio accompagnare nel racconto ciò che emergeva nel processo, perché il processo non solo Diaz, ma anche quello che noi definiamo dei 25, che adesso per la Cassazione sarà dei 10, ha permesso due cose importanti, se vuoi forse anche banali, ma importanti per poi l'esito dei processi. Da una parte la ricostruzione dei fatti, attraverso non solo i tantissimi testimoni che sono venuti in questi anni in aula di tribunale a ricordare in modo diverso, perché ovviamente avevamo persone del movimento come tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Però la ricostruzione dei fatti è stata quella che ha permesso di come dire, ottenere della soluzione, dell'archiviazione per quanto riguarda i manifestanti, e lo studio di tutto il materiale documentale che ci è stato dato. Parlo del Legal Forum, che ha potuto consultare, che sono video e foto che hanno fatto la differenza rispetto ai processi, anche al processo Diaz. Il procuratore generale ha, nella sua relazione finale, ricordato alcuni momenti, diciamo, molto importanti rispetto alle fasi iniziali del Blitz, e questi momenti importanti sono stati fissati attraverso i video, e i video dei primi 10 minuti di Blitz, dobbiamo ricordarlo, sono quelli della scuola Pascoli, di quei mediativisti in di media che, nel panico più totale, dunque Radio Gap è, diciamo, la testimonianza audio, ma ci sono anche quelle video di 3-4 persone che hanno acceso la telecamera e hanno filmato ciò che succedeva nella scuola a fianco. E questi sono documenti preziosissimi, senza i quali noi non potremmo ancora oggi, perché ovviamente vale la parola, fa fede la parola delle forze dell'ordine contro qualsiasi altra testimonianza, non potremmo dare una risposta alla resistenza cosiddetta dei 93 occupanti, che non solo hanno chiuso giustamente il cancello e il portone, come ricordava Mina, rispetto a un terrore che non solo si percepiva ma si vedeva benissimo arrivare dentro la scuola, ma la resistenza era quella di aver lanciato pietre e quant'altro dalle finestre contro le forze dell'ordine. Questo è stato uno degli elementi sui quali loro hanno impiantato il verbale d'arresto, oltre al ritrovamento delle armi e tutto il resto, e questo è stato uno dei primi elementi che sono stati scardinati rispetto alla ricostruzione, perché i video sono, come dire, più chiarificatori di qualsiasi altra testimonianza. Fra l'altro c'è da dire che quella notte l'incrociare di telefonate di gente che stava a casa a dormire non era lì. E io ricordo c'è stata anche, insomma, eravamo persone pure, compagni parecchi, con una certa esperienza di piazza e di situazioni, insomma, anche difficili, eppure c'è stata anche un'incredulità, un'incapacità di capire lì per lì la portata di quello che stava succedendo. Che ti arriva una telefonata, sono entrati alla Diaz, stanno menando tutti, ma non chi ha ricevuto queste telefonate, per esempio io stessa, lì per lì non si è potuto rendere conto, perché veramente è stato qualcosa di inaudito per durata e per estensione. Cioè non è che la polizia non ha mai picchiato, ha fatto anche di peggio, ma veramente la Diaz e Bolzaneto, poi non dimentichiamolo, rappresenta qualcosa di inedito nelle sue proporzioni. E veramente ci dicevano, appunto, i registi che ho citato prima, Vilma Labbate e Roberto Giannarelli, che per loro questa può essere anche una visione particolare, ma insomma per certi versi condivisibile, Genova ha rappresentato una sorta di linea di demarcazione tra prima e dopo, tra chi c'era e chi se l'è fatto raccontare. Però questo, appunto, è un incentivo ancora in più a continuare a raccontare, al di là della verità giudiziaria, chiamiamola parola così che uscirà fuori, il significato politico di quello che è successo a Genova, il significato politico di quello che si voleva portare a Genova e la risposta politica e militare che è stata data a questo movimento. Questo è importante soprattutto, e noi speriamo sempre che queste persone ascoltino, guardino, leggano, per chi non solo non era molto giovane e quindi non ha vissuto quel momento, ma chi per chi magari non si è nemmeno reso conto, pur avendo l'età per comprenderlo, della portata di quello che è successo. Non so, vogliamo andare. Io non so che orario avete voi, perché so che avete un aereo, quindi forse dovete andare. Allora, non so se, ecco, aggiungete, approfittate di questi microfoni, riempiteli di quello che più pensate. Non so, forse per finire, se dopo aver raccontato tutta questa storia, dire che queste persone appunto rischiano, questi poliziotti, questi funzionari non rischiano quasi nulla. Stiamo parlando di pene di massimo 5 anni di carcere. Se le compariamo con altre pene che stanno per subire compagni per danneggiare delle cose, è una cosa ridicola, se non ha senso. No, ma infatti per quello anche l'appello a far arrivare la campagna in Germania piuttosto che in Francia, insomma tutti c'erano lì, l'Europa comunque c'era tutta. Io ho visto che sono arrivate firme dal Cile, dall'Argentina, da paesi che probabilmente insomma hanno una relazione con la repressione e la violenza diversa dalla nostra, da quello che era il nostro prima di Genova, probabilmente, perché appunto noi continuiamo a dire che è stata la sospensione dei diritti umani più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia che fa specie, però insomma probabilmente anche in tutto è il mondo occidentale, in tutto il mondo occidentale appunto, quindi probabilmente invece di là dell'oceano non hanno mancato di dare supporto, nonostante casomai poi di Genova il ricordo è diverso. Anche se noi durante tutti questi anni abbiamo provato sempre a dire non è stato così inaudito, appunto è un problema strutturale della polizia, può succedere, succede, sta succedendo adesso e può succedere in qualsiasi momento, non è stato un momento, una notte cilena, che non una cosa, no, il grave di questo problema è che può succedere. Il grave di questo problema è poi che non è stato fatto niente per far sì che appunto questo non si ripeta, gli individui sono gli stessi, le persone girano ancora, casomai vengono spostate da un commissariato piuttosto che un altro per dare una parvenza punitiva, ma poi insomma niente fa sì che nessuno di noi possa pensare che questo non si ripeta, ecco, in un momento in cui decida. 12 anni, stiamo ancora aspettando una sentenza, abbiamo, come ha detto Carlo, dei video che mostrano quello che è successo nella scuola, abbiamo dei video di questi funzionari che che guardano le Molotov che sono appena entrate nelle scuole, delle prove false, e comunque 12 anni non abbiamo ancora la sentenza. Sa, per giudicare un poliziotto cosa si vuole? Sì, fra l'altro c'è stato uno dei difensori, non mi ricordo adesso quale poliziotto, che continuava nella sua arringa a dire che il suo assistito non era presente a Genova quando ci sono video che lo ritraggono in svariate situazioni, fra le quali la Diaz, insomma, quindi veramente anche la consapevolezza di questa gente che alla fine non pagherà. Non so se anche lui vuole aggiungere qualcosa. No, il problema è che non ha capito molto, okay. Come non ha capito assolutamente quello che avevamo. Sì, sì, come no. Ma penso che la Diaz, al di là della sentenza che avremo il 5 luglio, ma non solo la Diaz, diciamo il G8 di Genova in generale, rispetto poi a tutti i fatti che sono accaduti dopo Genova, che si sono ripetuti, e bisognerebbe sempre ricordare di inquadrarlo, come dire, in un problema politico e come tale risolverlo e non farne una questione di polizia buona o cattiva, perché non porta a nulla, non è quello il tema. Chi ha responsabilità penali c'è il tribunale, non siamo noi che invece vogliamo fare politica e vogliamo che qualcun altro che, come dire, gestisce la polizia dia risposte. Le risposte non sono state date non solo attraverso 12 anni di processo e siamo qui ad aspettare l'ultima parola, ma politicamente i governi, perché abbiamo avuto governi centrosinistra e centrodestra, non hanno detto una parola se non in difesa appunto dei loro servitori dello Stato, non hanno detto una parola per queste 93 persone che hanno subito questo blitz e tutti coloro che sono stati a Bolzaneto. E questo è un problema grave non solo per loro, che comunque la maggior parte di loro non sono neanche italiani, ma per tutti noi che invece viviamo in questo paese e che continuiamo a condividere tra virgolette questa cultura dell'omertà attraverso, come dire, dei referenti politici che non hanno voluto affrontare Genova. Questo è un problema, come dire, nostro, del movimento di allora, che conosciamo molto bene, ma è un problema politico che oggi coinvolge tutti. Cioè, se si parla di Genova bisogna chiaramente definire le responsabilità politiche e non solo fermarsi sulla ricostruzione dei fatti e sulle responsabilità penali. Ci penserà la sentenza, che piaccia o no, a dare la parola a fine. Soprattutto per quelle forze che un po' hanno cavalcato questa cosa ai tempi di Genova, perché, e parlo del Partito Democratico, che allora forse si chiamava in un altro modo ma hanno cambiato tante volte, Ulivo, qualcosa del genere, che perse le elezioni proprio pochi mesi prima, ma che a marzo era presente a Napoli e su scala a un altro vertice internazionale, su scala ridotta, ma diciamo a livello proprio spaziale e temporale, ma non con minor violenza, cominciò a sperimentare quel tipo di repressione che poi su larga scala c'è stata a Genova. Le stesse forze della sinistra che si riempiono la bocca di democrazia e diritti, ma che non hanno fatto niente, anzi hanno remato contro perché si mettesse poi in campo un'inchiesta parlamentare che magari avrebbe lasciato il tempo che trovava, però avrebbe avuto pure un significato di segnale. E quindi noi la responsabilità pure pesante la diamo anche a queste forze, che comunque alzano sempre gli scudi in difesa dei servitori dello Stato, come dicevi te, e in nome anche della repressione di cui loro sono non solo partecipi ma protagonisti nei riguardi di qualsiasi tipo di forma di dissenso. Ok, io direi che alle 12:20 possiamo chiudere qui questo spazio. Continuerete a sentir parlare di Genova da questi microfoni, perché dovete, insomma, sì, è quasi un ordine, comunque appoggiare la campagna a luglio, che poi sembra quasi, appunto, no? Una presa in giro, ti faccio uscire a luglio la sentenza, la farsa proprio. Comunque luglio sarà un mese di fuoco da questo punto di vista, ma non finirà niente, nonostante poi la Cassazione dirà la sua, perché comunque vada, questi 10 avranno bisogno di noi, adesso, durante, dopo, comunque vada in qualsiasi modo. Quindi la campagna inizia adesso per finire forse dopo che finiranno le condanne, che tutti e tutti torneranno liberi, perché insomma quello che è successo a loro poteva probabilmente capitare a chiunque si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato durante quei cortei. Allora io vi voglio appunto far aumentare l'ansia, quindi prima di mettervi un brano musicale vi mando appunto un estratto di quei momenti, le registrazioni che poi tanto si sono viste utili, di quelle giornate genovesi. Maschera antigas, non so più di altro, lo sai. Noi vogliamo solo capire quello che succede, è un'altra cosa. Non gli è stato consentito di entrare, perché essendo un'operazione di polizia non è consentito accesso a nessuno, nemmeno un parlamentare. Tantomeno, e perché mai parlamentare deve entrare su una... Quanti ragazzi sono stati portati in ambulanza? Guardi, allora, quelli portati in ambulanza, che io sappia, almeno quelli che ho visto, avevano già le bende sulla faccia, quindi sono persone, contrariamente a quello che è stato detto da membri istituzionali, che si sono fatti male, si sono attuffati durante il corteo, non è che noi siamo entrati e abbiamo massacrato tutto. Cioè lei dice che nessun ragazzo è stato colpito? Dentro no, c'è stato un fuggi, qualcuno è stato fermato. Ora, intendiamoci, il concetto di fermare non è che la persona dice ok, sono qua, ferma. Avete necessariamente un minimo di equazione fisica. Però, per bloccarlo. Perché è stato menato? Ma non è vero che sì, sono l'ho visto io qua con la casa. E per questo è quanto vanno, ha dato la manata in testa così. Va bene. Ma sicuramente entrerete, anzi, io credo che abbiano tutto l'interesse i capi a mostrare quello che è stato trovato. Visto che loro hanno detto che qui non potevamo entrare, e non è vero, perché c'è un articolo, il 41, sì, voi potete fare tutto quello che volete. No, non tutto quello che voglio, per carità. Potete entrare in questo. È la ricerca di armi, ricerca di armi. Ma ne abbiamo trovato, l'arma non è la pistola. Ma non di là. Non di là. Infatti. E di qua? No, di qua non sono. No. Io sono solo di là. Ma chi è entrato di qua? Io no. No, non sono entrato di qua. No, andato subito qua. Forse tu no, ma forse altri no. Non credo. Tu li hai visti, hai capito che non c'erano. Sono quelli di Agnolotti, il consigliere, che prima hanno detto poi hanno preso le distanze, ma mi vedete quali che le hanno fatto. E quanti armi ha trovato? Tantissime, però non pistole. No, ma quale armi e quanto? Coltelli, 20 coltelli, mazze con ferro, alcuni, catene, mazze antigas. Thank you.